Un bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, New Disorder. Le frequenze sono 98,6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101,5 per Verona città e rimanente provincia. Ma non è tutto, perché Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Passiamo dal pomp rock al British heavy metal dei primi anni 80 con alcune delle formazioni più o meno note del panorama. Prima canzone era Midnight Chaser degli White Spirit, band durata lo spazio di un disco, ma in cui si distinse Yannick Gers, attuale chitarrista degli Iron Maiden. Una band sfortunata che però aveva un discreto talento, che ne pensate? Beh sì, comunque il talento è innegabile, però diciamo nel loro stile, nella loro ritmica, il suono delle chitarre, l'organo, si risente molto anche quello che è lo stile dei Deep Purple, delle Zeppelin, gruppi comunque che in quegli anni anche Black Sabbath, e quindi diciamo gruppi che poi sono diventati dei nomi molto importanti nella scena musicale, diciamo dei cosiddetti mostri sacri. Per questo motivo diciamo sono stati diciamo un po' oscurati negli anni 80 appunto da queste altre grandi band, però non per questo insomma non c'era del talento, un bel sound e anche comunque dei riff molto molto accattivanti in questo brano. Hollywood Burns è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro queste parole? Beh, il nostro grido di guerra, diciamo così. No, vabbè. Sono chiaramente due parole che racchiudono un significato, che è quello della disillusione. Hollywood rappresenta per molti il vivere sopra le righe, il sogno a volte anche irraggiungibile, il fatto di essere speciali, di distinguersi dalla massa. Hollywood brucia nel momento in cui tutte queste ambizioni, questi sogni, si rivelano per ciò che sono, quindi per un qualcosa di effimero. Il significato che c'è dietro l'album è proprio questo, anche che viene sottolineato anche con una vena ironica nella canzone, nella title track stessa, che poi dopo più avanti ascolteremo. Nel 1981 esordio su disco dei Raven, trio heavy metal guidato dai fratelli Mark e John Gallagher, noti per il loro stile anfetaminico, da Rock Until You Drop la canzone Don't Need Your Money. Change my life when I just wanna relax. Trying to change my life when I just wanna relax. We'll be right back. Come altre band, i Raven non sono durati tanto, ma l'influenza sulle metal band a venire sarà innegabile, che ne dite? Sì, bene, anche tra di noi qua si stava discutendo sulle influenze che abbiamo sentito anche con la nostra cultura musicale, soprattutto diciamo si ascoltano e si intendono molto bene influenze che poi vanno a finire sui Metallica, sui Pantera, i primi CD di Pantera. Diciamo sono un gruppo abbastanza forte, soprattutto a livello strumentale, ma io ho scoperto un piccolo problemino, se così possiamo dire, visionando un po' di video vecchi su internet. Ho visto che il bassista cantava con un microfono ad archetto. Beh, secondo la mia opinione, a livello visivo non era fortemente... non aveva una forte trasmissione di impatto. Aggressività, esatto, non aveva un grande impatto questa cosa. Può sembrare anche una stupidaggine, ma secondo me... La sfortuna loro è stata anche questa, perché fondamentalmente la musica è molto molto potente e le band successive sicuramente hanno appreso molto da questa band. Come vedete la scena musicale romana riguardo al rock? Trovate difficoltà oppure c'è grande coesione tra varie band? Ma guarda Gianluca, secondo me, secondo noi, la scena musicale romana crediamo non sia poi fondamentalmente molto diversa dalla scena musicale del resto d'Italia. È complessa perché da parte dei locali c'è comunque una diffidenza, secondo noi, nel far suonare band che propongono una musica propria, musica originale, soprattutto nel mondo alternativo, del rock alternativo. Poi, come accennava prima Steve, c'è anche difficoltà da parte del pubblico che non è molto educato, nel senso tra virgolette, ad ascoltare musica nuova. Il pubblico italiano deve ancora crescere, insomma, in questa direzione, secondo noi. Per quanto riguarda il rapporto con le altre band, normalmente è un rapporto positivo, fatto di collaborazione, di stima reciproca il più delle volte. Spesso si divide il palco insieme, si partecipa a contest, ci si confronta. È anche importante per noi andare a vedere, quando non siamo direttamente coinvolti in un live, andare a vedere altre band che si esibiscono, perché comunque la scena underground romana, ma diciamo un po' dappertutto, sono sicuro che è così, presenta anche offre delle possibilità di ascoltare dei gruppi molto validi, per cui è anche un'occasione per crescere, per confrontarsi, anche per apprendere in alcuni casi diciamo da altri gruppi che sono sicuramente molto validi. Chiudiamo la seconda parte con i primi Iron Maiden, con ancora Paul Di'Anno alla voce, dal loro primo album Iron Maiden 1980, il classico Running Free. Noi torniamo dopo la pubblicità con i New Disorder, che ci faranno ascoltare 6 canzoni dal loro disco Hollywood Burns. Non mancate.